10 ore, ecco. Brecchi, non ve ne esce uno, cosa brecchi? Brecchi a chi? Beh, più nessuno sì, visto che l'hai risposto. Aspetta, una cosa, se tu brecchi vuol dire brecchi, vuol dire stop, vuol dire che stai stoppando la comunicazione, cosa stupi? Non ve ne esce uno, brecco. Siccome hanno fatto due cose importanti, pensavo ci fosse qualcuno. Gianni doppio ru. Vedi che la gente c'è qua, stanno chiamando tutti. Avanti chi chiama, buonasera a tutti, dai. E avanti. E basso, basso, sì, chi sei? Cosa? E allora, QRM a nastro cieco, ma QRM non normale, è di propagazione. Io mi ho capito che sei tu da come parli. Falcone, perché sennò non avrei capito la cucchiaia. E c'è anche il gruppo. Non so se riesci a tirarmi fuori a me. Ola, ola, ola. Ola. Melanzane, patate e zucchine. Ciao Falcone. Ehi, salutoni a tutti. Ciao Gianni e Crone, se non sbaglio. Questa è quella grande... Buonasera anche a te Sandro, ho visto Grobe che basta che entri uno entrano anche gli altri, se invece non entra nessuno e nessuno fa capolino rimane tutto vuoto. Capolino ceramiche? Qui da Barifondelli due esempi. Comunque è così, non vi state, non state, ne manca uno e mancano tutti, non è così che deve funzionare. Cioè, sono sede che accendo, che non ve ne sciù, boh, non capisco il nesso, non... Cioè, tutti quanti non avete voglia più di modulare, se non avete voglia io piglio, mi vendo tutto, non me ne affatti nulla. E ho altre cose da fare, però se si tiene l'apparato bisogna anche accenderlo, Gianni, il periodo, dai, adesso comincia il periodo estivo, poco tempo da dedicare alla radio. Non è ancora cominciato il periodo estivo. No, ma non è questione di periodo estivo, è questione, secondo me, di fiacca. C'è un po' di fiacca. Fiacca, di fiacca c'è già. Ui, ui, ui. Ehi, vabbè, dai, chiamiamola fiacca, chiamiamola come, come vogliamo, come. Va bene, no, io ero qui che ultimavo qualche cosetta, intanto ho detto, riesce a far riscaldare un po' il trattore. Falconero, mi ascolti? Ehi, Falcone, purtroppo periodo estivo, si sa, Falcone, QRM, e quindi non è la frequenza come l'inverno, l'inverno è più rilassata, meno QRM e tutto quanto. Comunque, va bene, dai, bisogna accettarla come. Ok, Crode. Parla di Roggero, eccolo. Bravo di te, Antu, tutto pieno di iniziative, di cose, adesso ti sta lasciando andare anche tu. No, penso non a girare così già. Il problema, se vuoi che te lo dica, è che sto lavorando, ci mancherebbe. Il problema è che le iniziative si possono sviluppare in un periodo, cioè, dove tutti possono fare le cose. Siccome io, quando voi festeggiate io lavoro, è normale che un po' mi viene male, ma a prescindere da quello, sicuramente questo qua è il risultato di tutta una serie di cose, di piccoli scritti, di piccole rotture di cose che ci sono state, ma non ti preoccupare, anzi proprio oggi stavamo parlando con Fabrizio, stavamo dicendo che se perdura questa situazione, questo tempo così, sicuramente uno di questi giorni facciamo, anzi organizziamo al più presto un pranzo a casa sua. Ok, ok, andava. Ascolta, ma per la stessa riporto Torre, se vabbè, non facciamo nulla perché tu lavori e non facciamo niente. Se no sarebbero potute fare, organizzare per i pellegrini, eccetera, eccetera. Stiamo muovendo sicuramente in ritardo già. Io, se volete, ci possiamo anche riunire assolutamente, anzi io ci terrei ad avere te e qualcun altro con cui riunire. muoverci e decidere effettivamente se fare qualcosa. Già, però qua sembra che qua, nel momento in cui si voglia costruire qualcosa, c'è sempre qualcuno che tende a smontare la cosa. Evidentemente o ci lasciamo trascinare oppure c'è qualcuno che trama nell'ombra, come si vuol dire. Basta scavalcare certe cose, no? Guarda, io lo sai benissimo, non ho nessun tipo di problema e non ho mai dimostrato, cioè anche se ho con qualcuno, c'ho qualche scritto, non mi impedisce di condividere lo stesso vescovo, non mi impedisce di dividere le stesse passioni, è importante che sia a debita distanza, dopodiché non c'è problema, non ho mai messo vetti se lui c'è e non ci sono e viceversa, credo, quindi non c'è problema. Ma ci potete mettere anche una pietra sopra, dai. Si può cercare un punto comune, cercare di andare tutti d'accordo. Avanti. Alessandro di Porto Torre si può far girare per Sosso, vai. Va bene, lei già purtroppo c'è chi lavora, c'è chi ha poco tempo e quant'altro, diciamo, vai. Anche se c'è la passione, però purtroppo sono tante cose. Sarà il periodo, sarà perché non c'è più quella voglia che ci dovrebbe essere, insomma ognuno Gianni sa della sua pentola, tutto lì, capito? Comunque, piano piano, vai. Piano piano vediamo un po' di ravvivarla, diciamo, questa frequenza, vediamo un po', vai. Falco Nero. Sarà un po' difficile perché i tempi sono molto molto cambiati. Anche c'è gente con poca volontà. E non lo so. Quindi quella piccola passione che ci è rimasta, insomma, è così. Rimane in stantia, capito? Adesso questioni di lavoro, questioni di questo, questioni di quell'altro, quindi dedicare all'apparato, diciamo. Poco tempo, almeno da parte mia adesso pochissimo tempo, mi adesso se non alla sera, io la sera quando rientro, doccia, poi mi metto lì a ultimarmi le cose mie di giornata e poi mi metto sempre qui perché io ho tutto a portata di mano, ho l'apparato, ho tutto, quindi mi metto ad ascoltare nel frattempo che faccio tutt'altro. Però lo so, sarà il periodo, Gianni c'ha ragione, non è che non ci abbia ragione Gianni, però purtroppo la realtà è questa qua. Riprendi Gianni. Ma basta, secondo me il fatto del lavoro sono tutte quante scuse, perché tutti lavorano, tutti abbiamo le nostre cose da fare, però se uno ci mette un briciolo di buona volontà nelle cose, per dire adesso c'era la sassa di Portone, se avessimo avuto i giubbini eccetera, avrei potuto fare il servizio per i pellegrini, se nella sassa, che abbiamo tanto bisogno, perché io lo so come funziona, ci sono dei gruppi che si staccano, ci vuole quello che va e ritorna, che faccia la staffetta per vedere qual è l'ultima persona, che comunichi agli altri i gruppi che stanno scendendo, quanti ce ne sono eccetera. Io lo so che da qualche anno faccio questo tipo di servizio col CISO, l'ho fatto negli anni, quindi so più o meno come funziona, come bisogna lavorare, capito? È ok Gianni, no, non è una brutta idea, almeno diciamo la presenza, far vedere che anche il CB è presente, e non è poco, capito, non è poco, va bene come hai detto. ma dimmi una cosa, quando è? Se non sbaglio mi sembra che sia tra sabato notte e domenica mattina, così è? Sì, dovrebbe essere tra sabato notte e domenica. Partenza solitamente alle 11 da Cavalcavia, 11, 11 e mezzo, dipende dai gruppi. E solitamente noi facciamo partire tutti insieme, quando c'è un bel po' di gruppo li facciamo partire, capito? E poi li seguiamo. Cioè noi, loro, perché io non ci sono più. Malgrado oggi capogruppo del CISO mi ha scritto che le mie dimissioni non sono state presentate a Roma, per cui io sono sempre in tempo ad andare, che se non vado li mancherò, eccetera eccetera, perché anch'io ero uno degli organizzatori e cosa, e ci tenevo, no? Ma, sapevo lavorare non per vantare, ma sono tanti anni che lo facevo, quindi so come funziona tutto e sapevo guidare anche i volontari, eccetera eccetera. Ok. Ascolta, visto che tu, diciamo, già in passato hai questa esperienza, secondo te quante macchine ci vorrebbero? Da noi usavamo due ambulanze e Land Rover che fa la staffetta, dove trova da girare, gira verso Sassari, poi torna indietro, controlla sempre l'ultimo del gruppo, quello che magari i due che rimangono da soli, che quelli sono i più pericolosi, perché si chiamano il gruppo, ok, quando sono due bassoni è sempre più l'occhio, quindi devi sempre scortare, le ultime persone vanno scortate perché si stanca, magari sono quelli che non ce la fanno, eccetera eccetera. Ma le macchine, se noi praticamente ne abbiamo tante, ben vengono, perché noi a Ciso lavoravamo così, facevamo un incroci, praticamente arrivava un'ambulanza, chiamava l'altra, facevamo attraversare la gente, per dire, negli incroci San Giovanni, e bloccavamo il traffico, facevamo attraversare la gente, e poi una volta che la gente passava, facevo passare le macchine, e poi partivo io e arrivava l'altra ambulanza, io andavo all'incrocio successivo, capito? Ho capito. E Gianni, le iniziative sono belle, capito? Sono belle, diciamo, non sono male, e purtroppo bisogna vedere chi è che la pensa positivo e chi è che la pensa negativo, cioè tutto ben venga, diciamo, come iniziative, però logicamente non tutti la pensano nella stessa maniera, capito? Lo so, ma se uno non propone, non manda avanti le cose, è normale che nessuno poi si fa vivo. Se uno non le propone, se non c'è qualcuno che proponga le cose, nessuno poi si fa avanti. Avanti sorso. Sappiano che cosa vogliono. scambiati, si sta modulando da 10 anni a questa parte, perché sono 10 anni già che abbiamo ripristinato tutto. Si può ripristinare anche quello, non è che come abbiamo ripristinato la frequenza che era muta, possiamo ripristinare anche il fatto di fare protezione civile, di fare antincendio come lo facevo io. Io facevo prevenzione incendi, roba del genere, facevamo, giravamo con le nostre auto e cose del genere, più di una volta abbiamo segnalato incendi, abbiamo evitato una volta un fienile scendendo da San Giovanni che aveva preso fuoco, me lo ricordo bene, tutte le buche che scappavano, ecco, e lì tutto c'era. E questo qui ci ha detto, avete visto che bello spettacolo, tutto il lavoro di un anno, tutta la cosa di un anno di lavoro, buttata via in pochi minuti. E ho detto, cosa ci vuole fare? Dai, non so, purtroppo cosa vuol fare? Sono arrivati vicini al fuoco, poi hanno aspettato l'incendio, tutto quanto, almeno il bestiame l'ha salvato, anche se era senza foraggio. Con te è già qualcosa, Gianni, è già qualcosa, se no ci rimetterà anche il bestiame. E così che va bene, va bene. Ok, dai, signori, io purtroppo vi devo lasciare, comunque vediamo un po'. Ti saluto Falcone, dai, ci sentiamo tutte le prossime, ciao Gianni, saluto anche a Crode, dai, e vedo gli ascoltoni, riprendi Crode se ci sei ancora. Antonio. Ciao, ci sentiamo, resta. Buonanotte, buona serata, avanti, sorso. Guarda, mi stavo preparando la graticola, aspetta un attimo. Avanti, no, scusate, mi sto preparando da mangiare, stavo accendendo la graticola. Pura letto. Anzetta russo. Sì, però ho preso una di quelle graticole usa e getta, non so se la conosci. No. Sì, in breve si accende, guarda, le vendete anche voi. Si accende una specie di foglio che hanno all'interno, cioè il carbone prestabilito e ti dà il tempo per cuocere una bistecca. No, non le ho mai viste, sinceramente. Non le sapevo l'esistenza. Ah, mia moglie ne aveva prima di graticola che era da baciare, era enorme. E c'aveva sotto il contenitore e si metteva l'acqua. Quando scendeva il grasso si formava già lo zuzio, diciamo così. Poi buttavi l'acqua e lo lavava. Ma mia moglie è strana. L'ha data a Portobello, l'ha portata a Portobello perché dice che sporcava tutto, che qua e là, che faceva l'ore, ma niente da fare. Era enorme, ce l'ho regalata a matrimonio. Roba di fettine ci stavano, bisteccone, quelle grandi e tutto. Una bella grande era. Comunque quella col carbone è un'altra cosa, non era elettrica la nostra. Vabbè, adesso si può avvicinare, avanti Falcone. Anto. Sta arrostendo, sta pensando a lui. Oh. No, negativo. Non sto ascoltando, Sasse. No, c'è sarebbe di corretta, ma un beba. A me mi sta arrivando otto il corretto, ma... ciao, ciao. Una cosa che potrebbe interessare a poca gente, penso, una cosa ben fatta, vedrai che io mi ricordo più quando lo facevamo qua a Sassari, con i giubbotti, CB Sassari, Radio Club CB Sassari, e facevamo valcata, facevamo un po' tutto. Te saluto. Ciao ciao Falcone, sentiamo. Hola. Ne ho visto abbastanza portatori di spagnoli, spagnolite più che spagnoli. Comunque realmente a me non dispiacerebbe, perché burocraticamente, giuridicamente è già stata tirata su l'associazione, che non lo so, c'è proprio la poca volontà da parte di alcuni di legare, c'è proprio sempre questo atteggiamento ostile che di alcuni, poi rispetto di tra di noi, di non voler costruire, capito? Invece a me piacerebbe vedere qualcosa di concreto. Sicuramente anche a me, ma io mi metto per primo in fila, perché anche io ho dei problemi, però ti ripeto, non metto dei vetti, questo che si sappia. Vedi, tutte queste cose poi hanno portato a far sì che adesso non si farà neanche questa, come si dice, questa cena, questo pranzo che avremmo dovuto fare a luglio insieme ai camionisti. Vabbè, un attimino che mi cuocio una fettina, poi ne parliamo.